Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Carissimi amici pirati dei sette mari, benvenuti a questo nuovo episodio su Runtime Radio, che riporta alla luce Ludico Forum, la trasmissione che fino a un po' di tempo fa parlava di videogiochi. Questa trasmissione oggi l'abbiamo resuscitata perché una musica, una sirena, un canto ha deflagrato per i sette mari e sembra, insomma, che qualcosa che nessuno si aspettava, oppure qualcuno se lo aspettava anche, sta per succedere. E ovviamente per parlare di questa cosa che sta per succedere io ho un parterre, insomma, tutto d'eccezione. Partiamo da una grande amante delle avventure grafiche, ma in particolare di Monkey Island, Pixel Deb. Ovviamente non ti avevo aperto il canale, adesso puoi risalutare. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Benvenuta. E grazie, grazie mille. Abbiamo anche Walter Sbano. Adesso che ero al microfono, quindi grazie dell'invito, ma è vero per davvero, me lo giuri? Ma guarda, adesso ne parliamo di questa cosa, sì, comunque è vero, a quanto pare che sia vero, insomma, non poteva non essere vero, insomma, perché alla fine oramai è diventato ufficiale, la cosa, il tam tam è diventato molto ampio e vabbè, poi ne parliamo. Abbiamo con noi ovviamente anche Umberto Parisi. Umberto? Buonasera. No, non ti sentivo. Scusa, non ti sentivo. Tra l'altro, autore di questo bellissimo stacchetto, che gli ho chiesto, Umberto, lo facciamo una cosa? E lui, giustamente, con la pazienza e la gentilezza che sempre lo contraddistingue, me l'ha preparato. Grazie Umberto, naturalmente. E salutiamo anche Francesco Di Muro. Gli asset potenti, che ricordate, mai spendere 20 euro per un microfono, meglio spendere di più. Esatto, e chi l'ha speso 20 euro per il microfono? Io. Ah, ok, vabbè, bravissimo. Vabbè, ti dai i consigli da solo dopo aver sbagliato, questa è una cosa importante. Allora ragazzi, abbiamo anche Puccio Carmine Console. Non partiva, non lo so, okay, ragazzi, è un po' pigro. Sì, questa sera il computer è un po' pigretto, è un po' sta così. Bello un po'. Esatto. Forse è il 486 SX con il quale giocavamo Monkey Island 2, chi lo sa, potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere, ma abbiamo uno spidone, ragazzi, abbiamo uno spidone, perché io ho chiesto così molto informalmente a questa persona, dico, vieni a dire un po' la tua opinione, diciamo che lui è una sorta di punto di riferimento di tutti quelli che sono i giochi Lucas, ex Lucas e tutte le dinastie successive che sono nate ovviamente dalla grande avventura, insomma, di LucasArts, e ovviamente autore del grande sito lucasdelirium.it c'è con noi Domenico. Ciao a tutti. Detto Diduz, chiaramente, per gli amici. Esattamente, cioè. Esattamente. Lo trova. Sono contentissimo di essere in mezzo a voi, anche perché, dato l'evento, mi sono lanciato e sto parlando con voi prima di avere aggiornato completamente il sito. Vabbè, questo è un onore per noi, cioè, naturalmente. È una roba proprio, non so neanche che sto facendo, forse sto delirando, probabilmente. Esatto. Per tenere fede al mio nome. Beh, poi con Domenico noi abbiamo fatto due belle puntate di Calavera. Una volta abbiamo parlato di Zack, se non sbaglio, una volta di Loom. Vabbè, abbiamo fatto parlammo di Loom e poi parlammo di Timberwood Park. Non mi ricordo se c'eri. No, quella quella non c'era, penso che ero già. Però di Loom. Di Loom. Cavolo, sì. Parlammo di Loom. Sì. Esatto. E va bene, ragazzi, di che parliamo? Ve lo faccio sentire. Per molti anni il buon Ron Gilbert è rimasto lì, apparentemente in disparte, a scrivere nel suo blog o a sibilare in qualche intervista. Le polemiche, i revisionismi e le brutte storie si sono succedute nel tempo senza colpo ferire. Ma Ron sa qual è la vera anima di Monkey Island. conosce perfettamente il segreto del tesoro di Big Boop e non vi azzardate a dire che non esiste. Pertanto, alla fine si è ripreso, in un modo o nell'altro, la sua creatura alla ricerca di quel terzo capitolo che non è mai stato. Oggi, ad oltre 30 anni di distanza, il buon Gilbert ci chiede di tornare là, dove tutto è iniziato. E voi che farete? E questa è la domanda fondamentale di questo episodio. Noi che faremo? E questo ce lo racconteremo fra poco. Però prima di tutto questo facciamo un attimo un excursus, Domenico. Perché, come abbiamo detto, il primo d'aprile Ron Gilbert ha annunciato il fatto che stava lavorando un nuovo Monkey Island. Lui, questa cosa era stata presa un po' alla burlona, perché chiaramente il primo aprile è il primo aprile. Poi successivamente sono state ulteriori conferme di questa cosa e quindi diventa ufficiale. Però con Ron Gilbert, tu mi insegni, perché io ovviamente seguendo il tuo sito, insomma, queste cose poi le apprendo da Lucas Delirium. Ron ne ha sempre parlato un po' di questa ipotesi di fare questo terzo capitolo. Sì, guarda, allora innanzitutto io penso che noi fan italiani nello specifico abbiamo sempre saputo che sarebbe stato collegato al primo aprile il Monkey Island 3 di Ron Gilbert, perché da se DGM, vi ricordate un famosissimo pesce d'aprile di TGM, che penso abbia segnato parte delle nostre giovinezze nel 93, diciamo che non siamo in grado di prendere veramente come scherzo qualsiasi cosa che sia collegato che colleghi Monkey Island a primo di aprile. Comunque, chiusa questa parentesi, c'era una particolarità, c'era più di una particolarità in quello pseudo scherzo del primo aprile, e che lui negli anni aveva sempre detto che non scherzava mai il primo di aprile, perché gli dava molto fastidio la tradizione del primo aprile. Quindi nel momento in cui lui ha scritto quello, poi sotto ha scritto comunque, già che ci sono, così per cambiare per rimestare un po' le acque, vi dico che sto facendo Monkey Island. Guarda, molti di noi hanno istantaneamente capito che era vero e non era uno scherzo. C'era una specie di gioco perverso, come sempre, che mandava avanti lui. E quindi comunque la situazione era questa a livello di scherzo, ecco, diciamo. Però nella sostanza, come tu ricordi, lui per anni aveva insistito su questa cosa. In particolare lui aveva cominciato a insistere su questa storia del Monkey Island 3 suo mai fatto, non subito dopo aver lasciato la Lucas, perché ricordo che lui lasciò la Lucas quando in teoria avrebbe potuto benissimo farlo Monkey Island 3, cioè nessuno glielo impediva in quel momento. Lui lasciò la Lucas all'inizio del 92, dopo che era uscito Monkey Island 2 alla fine del 91, vabbè, da noi poi arrivò più tardi ovviamente, no? E lui fondò la Humongous per fare avventure grafiche punta e clicca per bambini, e in effetti lui non pensava in quel periodo iniziale di tornare mai su Monkey Island. Sì, nel senso, ne parlò così, tanto però in intervista mi pare, però non è che pensava di doverlo effettivamente fare, prima di tutto perché sapeva che Monkey Island, gliel'avevano fatto notare più di una volta da Lucas, non vendeva, neanche Monkey Island era riuscito nell'impresa di vendere più dei giochi Sierra in America. Questo è un vecchio tormentone che tutti quelli della Lucas sentivano dire, ed era vero in America, poi in Europa in realtà la situazione era invertita. Quindi un po' pensava che tutto questo successo non l'avesse avuto, non c'era internet all'epoca, no? E poi non si era trovato in realtà di fronte a una cosa che secondo me gli ha fatto cambiare idea, cioè quando la Lucas fece senza di lui nel 97 The Curse of Monkey Island, e lì secondo me lui cominciò a diventare un po' più cattivo in quel momento, perché si aspettava probabilmente di essere coinvolto, ma invece nessuno pensò di farlo. E da allora, a poco, poi ha aperto il blog nel 2004, grumpygamer.com, ha cominciato a capire ancora di più quanto per la gente avesse significato la saga di Monkey Island, e c'è stata questa crescita esponenziale di anche di rosicamento, diciamola tutta. C'è stata questa crescita esponenziale di rosicamento che poi l'ha portato a innestare questa specie di tormentone che i fan nel corso degli anni hanno sempre replicato, cioè io farei un Monkey Island, ma solo se avessi i diritti di Monkey Island. Questa è una cosa piuttosto interessante, perché purtroppo si è creata nel corso degli anni una grossa confusione su questa frase, un po' perché c'è un caso di mezzo lost in translation qui. Comunque, un conto sono i diritti, un conto è la licenza, sono due cose diverse, certo. Diciamo, approfittiamo di questa occasione anche per dirlo. Lui parlava proprio dei diritti, cioè lui diceva: se io dalla Disney non ricevo i diritti o non riesco a comprarmi i diritti del marchio, certo, di Monkey Island, attenzione che è una cosa enorme, del marchio di Monkey Island, io non avrò mai la libertà di fare il gioco esattamente come voglio e quindi non lo farò. Lui non voleva fare un gioco in licenza perché, ora io, beh, questa cosa a me non mi convinceva, non ero molto d'accordo con questo suo atteggiamento, ma lo capivo però, attenzione, dal punto di vista emotivo. Pensava ci fossero troppi vincoli, diciamo. No, non so, pensavo, ma anche gli dava fastidio proprio il principio che tu, se fai un gioco su licenza, o un prodotto su licenza qualsiasi, non solo un videogioco, devi pagare l'affitto di questa licenza, primo, poi devi anche dare una percentuale su quello che vendi a chi possiede il marchio. E lui dice: ma perché io devo pagare per qualcosa che ho creato io? Cioè, a lui dava proprio fastidio questo concetto, fondamentalmente, oltre al fatto che probabilmente non avrebbe avuto la libertà che voleva. Quindi c'era questa situazione di stallo, però, e c'è stata anche, purtroppo, anche un po' per colpa pure mia, perché pur sapendo la differenza forse non sono stato abbastanza chiaro, cominciato a esserlo da 2 anni a questa parte, c'è stata un po' di confusione presso i fan, perché per esempio nel 2009 i Telltale fecero Tales of Monkey Island e non hanno mai avuto i diritti sul marchio di Monkey Island, i Telltale, assolutamente, avevano una licenza, avevano una semplice licenza, semplice fra virgolette, ma riuscirono con il sudore della fronte a firmare la licenza per usare il personaggio, per usare i marchi, per usare il mondo di Monkey Island, per fare il loro Monkey Island. Poi la licenza è scaduta e tu chiaramente poi la devi rinnovare. Adesso è stata rinnovata dai nuovi proprietari della Telltale, che si chiamano LCG Entertainment, e quindi c'è questo discorso, e quindi c'era questa differenza. Ora, quando tutti quanti dicevano Ron Gilbert non può fare Monkey Island perché la Disney gli impedisce di fare, allora la Disney non è che glielo impediva, era lui che si autoimpediva di chiederlo alla Disney per ragioni, per carità, perfettamente comprensibili, non era questo il discorso. Però si poteva fare effettivamente, e io l'ho detto più volte anche in tempi non sospetti, diciamo, che perché si poteva fare un nuovo Monkey Island su licenza, lo poteva provare a dire, che poi noi diciamo, scusate, diciamo la Disney, ma la Disney è tutto il contrario di tutto, cioè una specie di vabbè, lì è l'universo, Disney è l'universo, l'universo intero, cioè, esatto. Noi in realtà parliamo della Lucasfilm. Lucas è il mondo, poi, esatto, okay. esatto, la Lucasfilm, e nello specifico questa Lucasfilm Games, che compare, avete visto nel trailer, sì, anche come logo, che non è né un publisher né uno sviluppatore, quindi non ha un nesso diretto con quella che era Lucasfilm Games di allora. Un gestore di licenza. Sarebbe... Sì, esattamente, bravo. Cioè, in pratica è l'ufficio licenze che si occupa dei videogiochi della Lucasfilm, perché comunque è vero che la Disney chiuse la LucasArts nel 2013, aprile 2013, però non erano neanche così stupidi da sapere che dovevano lasciarci per forza almeno qualcuno che sapesse di che cavolo si sta parlando quando si parla, certo, di videogiochi, perché sennò poi le licenze come cavolo le gestisci, quelle di Star Wars principalmente, perché a loro quelli interessavano. E quindi è rimasto questo nucleo piccolino con questo Craig Derrick, che è ancora dietro questo progetto, ma è stato anche il capoprogetto delle special edition dei due Monkey Island tra il 2009 e il 2010, e poi fu anche uno di quelli che fu protagonista della licenza ai Telltale di Tales of Monkey Island. È sempre la stessa persona, questo Craig Derrick, quindi voglio dire, c'è ancora gente lì che incredibilmente è rimasta a tenere il forte e ci tiene un po' anche a ciò che non è Star Wars, e questa io la trovo una cosa, voglio dire, tutto sommato rincuorante da questo punto di vista. E quindi io avevo sempre sperato, io devo dire che adesso non so se nei vostri podcast ogni tanto ve la tirate spero che ve la tiriate. Io adesso un po' me la tiro un attimo, perché io il 14 sì, perché io il 14 gennaio del 2021 postai una cosa su Facebook, mm-hmm, in cui dissi che secondo me stava per accadere questa cosa qui. Guarda, io ho fatto, noi facemmo un podcast tipo un paio di anni fa, proprio quando sì, ci fu la notizia della riattivazione del marchio Lucasfilm Games, come diciamo, come gestore di licenze. Bravo. No? Però io in quel momento l'ho detto proprio, anche l'ho, cioè, registrato, l'ho detto, secondo me prima o poi un qualcosa con Monkey Island esce fuori, cioè nel senso, era quasi, insomma, diciamo automatico, no, come tipo di processo. Però prima di lasciarti continuare, io volevo fare un attimo un giro con tutti quanti, perché ho due domande fondamentali, partendo da Deborah e poi Umberto. Prima di tutto, voi vi aspettavate una reazione così esplosiva da parte della community videoludica alla notizia? Perché, e che soprattutto, secondo voi, perché oggi, ancora oggi, parlare di Monkey Island è come parlare della fidanzata che ti ha messo le corna, o il fidanzato che ti ha messo le corna, insomma, che ti lascia ancora quel senso un po' strano dentro. E secondo, e anche che cosa provate voi in questo momento, cioè nel senso, qual è la sensazione che avete provato nel momento in cui avete capito che ok, sta succedendo? Partiamo da Deborah, poi Umberto, poi Francesco. Sì, guarda, all'inizio onestamente la mia reazione è stata il nulla, cioè ho visto il trailer, sono rimasta un attimo così, dicevo, fredda, ma che sto vedendo? Cioè sono rimasta un attimo perplessa quasi, poi dopo un po' il cervello ha ragionato e ho detto, oddio, cioè è arrivata la paura in verità, perché siccome per me Monkey Island è sacro, soprattutto il secondo, che è il mio gioco preferito tuttora, ho paura che possa, diciamo, rovinare un po' la magia dopo tutti questi anni. Nel senso, ovviamente tutti siamo rimasti senza parole, coinvolti dalla cosa, soprattutto per l'effetto nostalgia, perché ricordiamo gli anni 90, la nostra la mia infanzia e insomma la gioventù di tanti. E quindi sicuramente questo ci ha sconvolto sia in positivo ma anche, non so, non ti dico in negativo, ma comunque un po' di preoccupazione. Beh, cioè, diciamo anche che tu non sei un po' preoccupata. Diciamo che tu non sei neanche rimasta tanto contenta di Thimbleweed Park, no? Cioè, senso, sì, esatto. Non avendo apprezzato molto Thimbleweed Park. Esatto, mi è venuto un ictus per dirlo. Forse però, perché forse perché quando ho letto Ron Gilbert ho detto oddio, oddio, oddio. Quindi ero troppo entusiasta mi aspettavo forse che ne so, Monkey Island 2, il ritorno, insomma. E non lo so, non mi ha convinto del tutto i personaggi, solo Dolores mi è piaciuta, il finale poi l'ho trovato molto brutto. Addirittura. E quindi sono rimasta male, sì, ma un po' annoiato. Okay. E quindi ho paura che questo Monkey Island 3, dato che sono passati veramente tanti anni, non abbia quel fascino che aveva negli anni 90. Insomma, già che non è pixel art, a me già questa cosa dà un po' fastidio. Ma vabbè, questo diciamo che poi dopo ci interroghiamo anche per a chi è rivolto sto Monkey Island, e questa è una cosa importante. Umberto, invece, secondo te, a parte la tua reazione che sicuramente hai detto prima, no, forse eravamo fuori onda, cioè non è che ti ha colpito particolarmente la notizia. Però oltre a questo, secondo te perché ancora la community reagisce così potentemente a una notizia relativa a Monkey Island e Ron Gilbert? Vabbè, è stato un gioco che ha segnato l'adolescenza di tantissimi, che non abbia avuto il successo aspettato in America, non lo so, qui io posso parlare qui in Italia, certo, cioè, certo, parli certo, anche con persone che nulla poi hanno a che fare con i videogame, ma né tanto meno con il retro game che oggi va tanto di moda, no? E comunque quando gli dici Monkey Island è anche l'insospettabile, cioè, ah sì, ci giocavo, bellissimo. Quindi io mi aspettavo un boom del genere ad un annuncio del genere, che in realtà mi aspettavo ci sarebbe stato prima o poi, proprio da parte di Ron Gilbert, perché se lo sta lamentando da tempo questa cosa. Esatto. Prima o poi, insomma, avrebbe trovato il modo. Non sono particolarmente eccitato, perché la verità è che secondo me dopo così tanto tempo, cioè anche se ne può essere un gioco bellissimo o un gioco bruttissimo, un gioco superiore alle aspettative o sotto le aspettative, però sarà un'altra cosa, perché una persona in 30 anni è un'altra persona. Sì, questo infatti è detto, poi dopo ci torniamo anche su questo aspetto qui, perché è abbastanza rilevante secondo me, comunque non è una cosa da sottovalutare. Che sia un grande, perché a me per esempio Thimblewood Park è piaciuto tantissimo, cioè nel senso, però ecco, proprio perché mi è piaciuto tanto Thimblewood Park sei terrorizzato, insomma. No, mi aspettavo che un gioco del genere magari fosse, ecco, come diceva Deborah, fosse in pixel art. Fosse in pixel art. Però devo dire una cosa, cioè raga, io non ho visto, c'è un trailer, perché io non sì, certo, c'è un teaser più che un trailer, non è proprio un trailer. Poi lo vedo quando mi silenzio, dopo lo guardo un attimo, perché non sapevo neanche ci fosse. Okay. Vedi quanto ti ha sconvolto, hai. Dici sta cosa, certo. Francesco e Walter contemporaneamente, tutte e due insieme, sì, dovete dire la stessa cosa contemporaneamente, in sincrono pure, perché sennò non... aspetta che mi collego mentalmente, vabbè, dai ritmo vai Francesco, ritmo. Niente, io se devo, cioè io sono decisamente contento, ormai non me l'aspettavo affatto, diciamo così, però mi sembra naturale che abbia avuto questo clamore l'annuncio, perché comunque, come diceva Umberto, è un classicone irrinunciabile che pure di sguincio un po' tutti ci hanno giocato, e non solo quelli che erano giovani all'epoca, anche chi è più giovane adesso, cioè oramai abbiamo girato ogni 3-2 il video che hai fatto con mia nipote. Beh, che sì, giocava infatti, a Monkey Island. Abbiamo un'intervista, un'intervista sul canale di archeologia informatica proprio su chi gioca ancora a Monkey Island, e ci sono ancora i bambini che ci giocano, quindi sì, è che se ne fregano niente, non se ne frega il fatto, cioè se lo chiedevano neanche che erano vecchi, che un gioco vecchio, che un gioco nuovo, è un gioco che ha quella caratura, diciamo, narrativa, poi divertente, cioè è davvero è quel capolavoro che è, perciò è ancora, c'è tutto sto clamore, sto successo, a prescindere dal fatto che non abbia avuto successo all'inizio, cioè io faccio sempre questo parallelo, che non ci azzecca niente, però ci azzecca con Blade Runner, il film, che all'epoca non se ne è cagato nessuno, poi è diventato una pietra miliare della fantascienza e della cinematografia in generale, eppure adesso sembra girato l'altro ieri, praticamente, se lo guardi. Che dici tu, boy? Che stai a dire? Vai, Walter. Io so solo che... Vabbè, Walter è tutto eccitato come un bambino. Sì, esatto, perché io periodicamente ci penso, io sono legatissimo ai primi due Monkey Island, quindi ogni tanto me lo sono sempre detto tra me e me, e ovviamente me lo sono sempre sognato come lo vorrei io, quindi in grafica bitmap 2D, in pixel art, eccetera, però mi rendo perfettamente conto che non può essere, perché se c'è dietro Lucas non si può ragionare come un produttore indie, quindi se Lucas lo ha tirato fuori dall'armadio è per farci dei soldi, e quindi per farci dei soldi sicuramente dovrà rispettare dei connotati che lo rendano moderno, quindi diciamo che di base, purché ci sia l'atmosfera e l'umorismo e magari il metodo il punto e clicca classico nelle meccaniche di gioco, okay. Per me poi il resto accetto qualunque compromesso. No, io invece voglio vedere quello che ne esce fuori, io diciamo non ho tanto paura del fatto che può essere non quel progetto puro che aveva pensato che lo mettere in atto, io invece non fiducioso, però sono curioso di vedere con sta cosa che è stata tirata fuori 30 anni con tutto le innovazioni o le non innovazioni che vogliono mettere, cioè cosa ne uscirà fuori, che sia bello, brutto, mi interessa, non c'ho sto cosa, no, deve essere forse in pixel, non deve essere forse un'avventura, no, grafica. vabbè sì, vabbè, ognuno esprime, diciamo, vabbè, ognuno esprime la propria preferenza, insomma, in merito a quello, no, ma infatti io sto dicendo la mia preferenza, lo sto dicendo voi stronzi, tu Deborah che detto sto dicendo la mia, cioè a questo punto anche perché vai, esatto, vai, ho visto teaser, ma c'è Murray, sì, perché sì. Adesso ci arriviamo, anche a questo ci arriviamo, bravo che è uno spunto importante, comunque c'è Puccio, non hai fatto parlare Puccio, e poi torno da Domenico, così gli voglio far esprimere proprio quello che vuole esprimere e mi deve rispondere a una domanda, e poi insomma se giustamente ha da fare lo possiamo anche liberare. Vai Puccio. Ah, io sono stato bello felice e contento, tipo bambino il giorno. Vabbè, ma tu sei sempre felice e contento, qualsiasi cosa che annuncio. Esatto. Io sono tendenzialmente ottimista. Puccio, fanno poi il remake che ne so, un posto al sole in 3D con Unreal Engine. Ah, bello, bello. No, con Oculus Quest, vai. Ci allora, io tendenzialmente sono ottimista sulle cose, poi deludermi è altrettanto va bene, vai. Sono contento. Poi ho cominciato, vi faccio da gancio perché oggettivamente era l'unica cosa interessante che potevo avere da dire. Ho cominciato a seguire un po' le dichiarazioni di Gilbert, quindi mi sono riallacciato, prima mi sono riletto un po' il suo blog, poi sono andato a vedere oltre lui del team originale chi era coinvolto, visto che praticamente solo lui. In più lui ha cominciato a dare informazioni via Twitter, sia col suo account personale sia con quello di Terrible Toybox, su che direzione poi avrebbe preso il gioco. Prima sembrava che fosse completamente sconnesso da tutto quello che è venuto dopo Monkey Island 2. Poi ha cominciato a dire che no, avrebbero tentato di mantenere la canonicità degli episodi successivi. Nel trailer è apparso Murray. Poi è venuto fuori che in realtà è ambientato immediatamente dopo Monkey Island 2 e che quindi tutto quello che viene dopo può essere, ha cominciato a parlare di scelta A e scelta B, quindi come se stesse alludendo a due linee narrative differenti. Quindi, poteva Monkey Island non avere un multiverso? Ma sì, ma è come J.J. Abrams, no? Giustamente, che e gli universi paralleli di Star Trek. Anzi, disse citando Tarantino, prima ero interessato, adesso ho un'attenzione un po' più preoccupata, esatto, una situazione orrenda su quello che sta succedendo, però tendenzialmente resto orrenda, su, no. sul progetto. Tutto bisogna sempre vederlo. Comunque, tornando da Domenico, scusa Puccio, poi dopo ne abbiamo possibilità di sviscerare un po'. Allora vorrei che tu, Domenico, esprimessi un po' quello che vuoi, cioè la cosa che tu vorresti dire in merito a tutta questa cosa, che ti senti dentro, e soprattutto, ecco, la domanda è: a chi è rivolto secondo te questa operazione? Perché questa non è una cosa tanto da sottovalutare, perché sì, noi abbiamo detto che molti, magari anche ragazzi, incappano in Monkey Island e magari ci giocano, però chiaramente, a parte il fragore che ha fatto la notizia, magari tante persone che Monkey Island, però magari malapena hanno visto, insomma, no? Perché quindi ecco, queste le due domande, insomma, che ti faccio. Cioè, una è: vai a ruota libera, e due, secondo te a chi è rivolto questa opera? Allora, per quanto riguarda che cosa penso io penso finalmente. Ma finalmente, non nel senso, io non ho mai aspettato questo gioco, lo dico sinceramente, che lui dice oddio adesso molta gente non seguirà più Lucas Delirium, però devo essere onesto, io ho sempre pensato che nello stile narrativo di Ron Gilbert la sospensione simil linciana fosse della storia, fosse una cosa che a lui piaceva tantissimo, che a lui piacesse tantissimo, perché l'ha fatta in Thimbleweed, l'ha fatta in The Cave, l'ha fatta in origine in Monkey Island 2, quindi non mi aspettavo sinceramente che il finale di Monkey Island 2 sospeso dovesse per forza generare qualcosa, cioè per me era finito in effetti. Detto questo, ovviamente sono estremamente curioso, proprio a livello puramente sia giornalistico sia emotivo, anche per quello che sta succedendo, di seguire quello che succederà, capito? Però mi interessa forse più questo aspetto del gioco in sé, quindi non posso dire di avere paura. No, onestamente, devo essere sincero, non ce l'ho, sono abbastanza tranquillo, anche perché comunque di lui mi fido a livello professionale, cioè mi sembra comunque uno che ha sempre fatto cose che mi hanno interessato, quindi magari sì, potrà inciampare in qualcosa, però è una persona che stimo e anche che ha una certa testa dura, quindi ho detto finalmente prima, scusami, poi ricollegandomi alla prima reazione, perché questa cosa del Monkey Island 3 mai fatto di Ron Gilbert, alimentata per metà da lui e per metà dai fan, è stata una zavorra tremenda, nel corso degli anni. Quindi finalmente, cioè, per lui, tu dici? Sì, esatto, bravo. Cioè, nel senso che ogni volta che lui faceva qualcosa, faceva The Cave, c'era gente che diceva: ah, ecco, è tornato. E però non è proprio tornato Ron Gilbert, perché deve fare Monkey Island 3, che non ha mai fatto. Fa Thimbleweed Park. Ah, ecco, ecco. Allora, dopo questo, non può che arrivare Monkey Island 3 di Ron Gilbert. Per cui c'era questa specie di cappa, no? Secondo me, che alla lunga, anche se gli serviva a livello promozionale, lo castrava. Però, cioè, io sono contento che finalmente questa cosa esista, perché dopo non potrà esistere più, e quindi la gente dovrà decidere se ama veramente Ron Gilbert, e c'è tanto da amare di Ron Gilbert, se ama veramente Ron Gilbert per Monkey Island o in generale per quello che ha dato al genere. Secondo me questo. Per quanto guarda la seconda domanda che tu dicevi, scusa, così chiudo questa cosa qui, tu mi chiedevi a chi è rivolto, no? E secondo me la cosa più sorprendente del teaser e del materiale che abbiamo visto fino ad adesso, perché anch'io, se me l'avessero detto fino a una settimana fa, ti avrei detto che sarebbe stato in pixel art sulla scia di Thimbleweed Park. Questa cosa che mi sono trovato davanti mi ha spiazzato per ora. Cioè, nel senso, non riesco a dare un giudizio di valore per adesso, mi sembra troppo presto, vorrei vedere Guybrush com'è, non l'abbiamo ancora visto, sì. E credo che non l'abbiamo ancora visto per un calcolo preciso, perché probabilmente lui sa che sta rischiando. È la parte più sensibile quella, certo. Per cui un passo alla volta, cioè dice: prima li faccio impattare su questa cosa qui e poi li faccio vedere Guybrush. Guybrush è veramente fondamentale e non l'abbiamo ancora visto strategicamente. Scusate, interrompo un attimo. Sì. Dal Cibali. A livello puramente ipotetico, ma da qualche parte Gilbert ha detto che c'è Guybrush? Perché io, è un dubbio che mi sono posto. C'è il doppiatore. Mi sono andato. C'è il doppiatore. Lo so, io però mi sono spulciato tutto quanto. Non sono sicuro che sia il protagonista. Vabbè, no, non è detto che sia il protagonista, ma c'è il doppiatore, c'è anche lui. Cioè, nel senso, quindi, no, flashback. Ma può sì, essere un flashback, può essere la voce fuori campo. Quello, so. Comunque, armato e confermato, cioè il doppiatore a partire da Hughes, sì, esatto, di Guybrush. Quindi, comunque, sì, ci sarà in maggio, sicuramente. Certo, sarebbe un'idea simpatica, però anche molto rischioso. Vabbè, certo, sta già rischiando abbastanza. Potrebbe anche accadere che non è lui il protagonista, magari. No, non l'unico protagonista, non okay, che non è il protagonista, okay. Assolutamente, certo che no, non lo può non mettere proprio, sarebbe una cosa folle, va bene la provocazione, ma l'autodistruzione no, cioè, non credo che arrivi a questo punto. A chi è rivolto? Quindi io ho il sospetto, vi dirò, mo ve lo dico, anche se sto ancora elaborando la cosa, che sia rivolto veramente a tutti, cioè che l'idea sia quella, e forse se ci pensate avrebbe anche un senso strategico, psicologico, emotivo da parte sua, perché se tu fai il Monkey Island 3 tuo mai fatto che cancella gli altri, ti ricavi la tua nicchia, diciamo così, però finisci per inimicarti, e non sono pochi quelli che hanno scoperto Monkey Island con Cures, attenzione, con 3, perché certo, sono veramente tanti, attenzione, sì, perché sì, è sì, un'altra epoca quella, esatto. Però ancora meglio, immaginate che come lui potrebbe riuscire concettualmente a possedere, almeno appunto dal punto di vista concettuale, perché legalmente non ce l'ha, però dal punto di vista concettuale potrebbe possedere veramente il marchio, se lui riuscisse a porre la sua firma non solo alla sua porzione di universo, ma anche a quella a cui hanno contribuito gli altri. Sarebbe qualcosa mischione, di veramente mischione, potente, sì, mischione, però sarebbe se ci riuscisse. Certo è un triplo salto mortale. La cosa che rispetto di lui, che se lui mi presenta il teaser così, vuol dire che non gli piace poi vincere tanto facile. Cioè un po' gli piace vincere facile perché Monkey Island, però fino in fondo lui vuole complicarsi un po' la vita. E a me questa è una cosa, sfida, vabbè, ma questo ci sta, mi dai, sembra molto coerente con lui, perché se pensate a The Cave che fece la Double Fine, che provava a raccontare l'avventura grafica con un controllo del platform, sì. Poi Timberwind, che a sua volta era assai particolare, secondo me, a livello di game design, perché era apparentemente antico, ma poi non fino in fondo, era un'operazione un po' particolare, e quindi mi piace questa volontà di sperimentare. Certo, sì, sicuramente l'aspetto è uno shock, la presenza di Murray è molto significativa, perché se io in questo momento fossi nei panni di Jonathan Huckley e Larry Hearn, che furono gli autori di Curse of Monkey Island, e vedessi nel teaser del famoso Monkey Island di Ron Gilbert che c'è Murray, io a questo punto direi: beh, mi hai consacrato, cioè definitivamente, perché se tu in un'occasione del genere, in una circostanza in cui c'è questa attesa mostruosa per la tua linea che dovrebbe cancellare tutte le altre, tu mi citi il personaggio che io ho creato invece che è Murray, vuol dire che forse Grumpy Gamer, cioè il giocatore brontolone come si autodefinisce Ron Gilbert, non è poi tanto oppure, brontolone. Oppure un paraculo anche un pochino. Sì, oppure sì, può anche, no, il paraculo sicuramente lo è, su questo non ci piove, però secondo me non può essere così ingenuo da non sapere quanta gente ami Curse o Monkey Island, il terzo, perché il terzo veramente ha presentato Monkey Island a una generazione che è venuta dopo la nostra, non alla generazione dell'Amiga o dei PC EGA, l'ha presentato a quella dell'esplosione multimediale, sì, del PC, esatto, Chrome, sì, della seconda metà degli anni 90. Il doppiaggio, il sound design, il fatto che era un cartone animato, presente, tutta una serie di cose. Sì, sì. Il mio primo Monkey Island è stato, esatto, la demo del 3. Poi io appartengo alla generazione precedente. E tra l'altro, la domanda che vi faccio a tutti, partendo da Debora, e poi ritorniamo a Domenico, così poi lo liberiamo, Debora. Guybrush Threepwood come appare nel primo, o cartunesco con la faccia da scemo come appare nel terzo? Beh, calcola, diciamo, io il terzo e gli altri per me non esistono. Ah, proprio? Sono estremista in questo, per me esistono solo i primi due. Okay. Li ho giocati, il terzo e il quarto lasciamo perdere, quando ho visto il Monkey Combat volevo morire. Vabbè, quello sì, vabbè, li lasciamo perdere, insomma. Il terzo, allora, nell'insieme è carino, è gradevole come gioco. No, il terzo a me non mi è dispiaciuto, però è, no, lì, è gradevole. Lì c'è una rottura importante, no, con i primi due, insomma. Beh, sì. Visivamente, cambia lo, dico, stile, certo. Diventa proprio un'altra cosa. Non lo so, io sono troppo affezionata ai primi due, quindi io considero solo quelli per i Monkey Island. Ok. Quindi per quello sono preoccupata di questo terzo, perché sarà il seguito dei primi due veri, cioè non è che considero poi gli altri, quindi spero che diventerà una bella trilogia e che questo terzo non rovini questa trilogia, diciamo. Ok, sì, io addirittura avrei fatto una cosa tipo 20 anni, 30 anni, un Guybrush tipo anziano che racconta, queste cose così. Nonno Guybrush. No, nonno, però vabbè, insomma, magari no, anziano, però insomma maturo. Umberto, più la versione disegnata realistica o la versione cartunesca, secondo te? Faccio una domanda, ma secondo te... Hai ragione, però no, rispondimi dopo, magari. No, io assolutamente sono legato alle prime due incarnazioni dal punto di vista estetico. Insomma, ci ho fatto quasi una carriera sua. Sì, sì, esatto. Allora, ricordiamo che Umberto, ovviamente, io per me Umberto è un amico, quindi cioè io non riesco poi a ricordarmi sempre, dovrei, perché Umberto, insomma, è sviluppatore già di due avventure grafiche con in progettazione la terza. Umberto, se lo vuoi dire così almeno. Sì, sì, vabbè, la saga di Chronicle of Ismoth, per chi non la conoscesse. Bellissimo. Steam e la roba, grazie Deborah. Beh, insomma, lei è fan di Cthulhu, quindi capirà che te lo dico a fan. Tantissimo, adoro. Bene, anch'io. E direi che sono legatissimo alle prime due incarnazioni. Okay. Per me sono tra i ricordi più belli della mia vita in generale, proprio, quindi non è solo una questione di gioco. No, ma io sono assolutamente d'accordo con te, infatti. Francesco, Walter e Puccio. Allora, io dico che tra il primo, quello del secondo, del secondo e del quinto, quella della Delta, che in realtà sono molto simili, ma diciamo, no, come no. Non sono d'accordo, mi dispiace, non sono d'accordo. però. Cioè, hanno il pastrano identico, il pizzetto, cioè come il design, cioè, è quello là. Non sei d'accordo, però chi cazzo ti ha chiesto il tuo parere, scusami. E stavo dicendo, a me non mi interessa, cioè io comunque per quanto mi interessa cosa, terzo, scusa. Il terzo praticamente è immortale, per quanto si possa dire è immortale, cioè nel senso con quella grafica puoi farlo vedere anche adesso, anche se in bassa risoluzione è comunque godibilissimo visibilmente, ovviamente io so più, però anche se è stato il mio primo approccio è stato con una demo del terzo, poi comunque io ho recuperato successivamente primo e secondo e poi tutti gli altri, e quello che sono legato di più è il secondo, quindi per me come il secondo, soprattutto quando gli cascano i pantaloni per me è Guybrush, è quello. Vabbè, però c'è da dire il terzo è splendido graficamente. Sì, è splendido, ma cioè, non è quello detto, non splendido, è assolutamente è per me. Sono d'accordo, anche se io ribadisco, secondo me c'è un taglio proprio netto, cioè quella cartoonizzazione di Monkey Island 3 ha rovinato secondo me il mondo delle avventure grafiche dopo, perché dopo è stato tutto così, cioè nel senso non c'era più un'avventura grafica normale, capito? Cioè nel senso, comunque vabbè, questa è la mia Walter Puccio, e poi torniamo da Domenico, così poi lo salutiamo anche, penso. Allora, guarda, d'accordo con Francesco quando dice che il Guybrush nel completo del secondo gioco è quello a cui sono più affezionato, quindi con il soprabito blu eccetera eccetera, col pizzetto, quindi quello è il mio Guybrush preferito, possibilmente non in 3D. Poi, per quanto riguarda il parallelo con il Guybrush di Monkey Island 3, in realtà quello che non mi è piaciuto non era lo stile, anzi, in generale è tutto molto bello. Però per dirlo come lo diremmo a Roma, decidere di rappresentare Guybrush secco allampanato, proprio come una canna vuota, no. Guybrush non è così, non è alto, secco e smilzo, è anche un po', non dico tarchiato, perché i personaggi erano tutti un po' deformed per stile grafico, però insomma magari anche per limiti, sì, probabilmente sì, però dico avrebbe potuto avere delle proporzioni leggermente diverse nello stile cartunesco che gli hanno dato, che poi comunque a me è piaciuto molto da quel punto di vista. Monkey Island 3 era una bella esperienza anche per la, appunto per il sound design, per l'atmosfera eccetera, poi come gioco era un po' minestra riscaldata, quindi mi è piaciuto e non mi è piaciuto, però ecco, i primi due fanno scuola a sé, non c'è niente da fare. Il più bello, quello che ricorderò sempre, anche perché era l'evoluzione tecnica del primo, è quello. Beh, sì, comunque il 2 è più colorato, è più, sì, comunque sì. E Puccio? Io voto anch'io per la versione 2 di Guybrush con il cappotto lungo, quello già capitato, okay. Così, quello col pizzetto. Vabbè, che poi comunque il primo e il secondo, cioè al di là del fatto che sono vestiti diversamente, diciamo hanno una figura più proporzionata, no? Rispetto alla versione super cartunesca che appare dopo, no? Cioè se voi prendete... era tutto così. Allora vado con Domenico a questo punto. Domenico, se tu prendi il primo piano finale di Guybrush Threepwood nel primo Monkey Island, no? Quando sta accanto a Elaine, no? Che sono due bellocci, sono due da film Disney, no? Diciamo così, no? Poi dopo tu vedi la stessa versione delle remastered con lui cartonesco, sembra un bambino svantaggiato. Diciamoci la verità, mo io non voglio usare termini brutti, no? Però sembra un bambino svantaggiato. Sfidato, mentalmente sfidato. Esatto, allora, bravo, vai. Bravo, mentalmente sfidato, mi piace questa definizione, cioè nel senso che io sono ovviamente per ragione anche generazionale legato al Guybrush belloccio ma rincoglionito, piuttosto che al Guybrush tutto storto e strano e rincoglionito uguale, cioè nel senso visivamente proprio, perché poi dopo quella deformità, cioè quel deformed utilizzato nelle versioni cartunesche, dove poi Telltale ovviamente l'ha portato all'ennesima potenza, a me non piace, cioè io non lo riconosco, cioè non riesco a identificarlo, no? Quindi questa è la mia opinione, ve lo senti un po' il parere di tutti e vedo che insomma più o meno non c'è proprio un accordo unanime, ma questo è giusto che sia così. E invece tu, Domenico? Allora, io, vabbè, al punto da averlo fatto diventare il mio sempiterno logo del sito, io amo il primo Guybrush, e non solo, dirò di più, io amo più il primo gioco del secondo. Penso di essere in minoranza, ma io quel vagare per l'isola di Melee del primo Monkey Island di notte l'ho trovata, io continuo a trovarla una delle cose più belle che uno possa fare quando sì. gioca, cioè c'è qualcosa veramente di magico, un po' perché c'erano quei fondali di Mark Ferrari che persino nella versione EGA originale a 16 colori Ferrari è stato un genio della pixel art, e devo dire che sono veramente stupendi. Sono assolutamente d'accordo con te, e l'atmosfera è bellissima, perché poi risponde perfettamente a una teoria di Ron Gilbert, cioè di metterti nelle stesse condizioni del protagonista, cioè lui arriva in un posto che non conosce, quindi tu controlli un personaggio in un posto che non conosce e che non conosce come tu, no, che tu stesso non lo conosci, quindi scoprite insieme questo mondo grande. Io veramente Monkey Island 1 sono terribilmente affezionato, Monkey Island 2 è geniale in tantissime cose, sì, no, però è vero. Proprio guarda, io ti sposo in pieno su questa cosa, perché su Amiga 500 la prima volta che io ho giocato a Monkey Island, l'atmosfera, proprio l'atmosfera notturna di Melee Island, in realtà era un'atmosfera talmente forte, talmente potente, visivamente talmente bella, che comunque oggi ci rimane impressa. E quando tu pensi a Monkey Island, in realtà pensi a Melee Island, fondamentalmente. Sì, per alcuni. Non, no, ovviamente questo. Ecco, tra l'altro qui qualcuno, mi pare Francesco, giustamente ha messo nella chat di Skype la foto di quello che sarebbe il primo piano del finale di Monkey Island, sì. Chiaramente però una versione cartunesca, cioè ragazzi, stiamo scherzando? Cioè, ma io, a me potete dire quello che vi pare, perché io capisco che a alcuni piace lo stile cartunesco, ma questo ragazzo ha dei problemi, cioè nel senso è meglio lei nell'immagine, tra l'altro, secondo me è più simpatica Len. Beh, sì, sì, lei ne esce comunque meglio, insomma, rispetto a come sì. Cioè, mi dispiace. Vabbè, ma c'è da dire che chi ha fatto questi remake è uno scellerato, nel senso che non ma era la tendenza, oramai si andava verso quello, cioè da Monkey Island 3 in poi era questo l'approccio, ok? Questo stile è molto diverso da quello di Monkey Island 3, ma molto. Sì, è vero, sì. Sono d'accordo. Però l'impronta è quella di file deformed cartunesco. Scusa Umberto, vai. No, è nel senso che io aborro proprio stile di remake totalmente. Assolutamente inguardabile sta cosa, cioè ragazzi. Ma bello a suo modo, credo. Sì, poi ti possono aver cambiato il personaggio, però tu lo vedi il personaggio, magari sì, anch'io ho avuto una brutta impressione, non lo riconosci, però poi quando vedi il gioco fai bello. Io quando ho visto sti remake la prima volta ho fatto ma che è sta merda, cioè è stata proprio la mia parola, testuali parole, proprio così l'hai detto. Poi c'è anche, se posso dire, scusa, c'è anche un problema tecnico che hanno il secondo remake un po' di meno, ma il primo ce l'ha molto forte, che praticamente sono ridisegnati in HD gli stessi identici sprite della versione originale, nello stesso numero, per cui tu hai una animazione scattosa e approssimativa come era quella, relativamente approssimativa ovviamente nel contesto storico, che era quella dell'epoca, con una grafica HD contemporanea, e a me dava molto fastidio questa combinazione, cioè era incoerente, perché tu con quella risoluzione ti aspetti una fluidità, ecco appunto, ti aspetti una fluidità di animazione come quella che si vede nel teaser del nuovo Monkey Island che è stato annunciato qualche giorno fa, che sì, può avere anche lo stile cartoon grottesco, d'accordo, che su cui stiamo discutendo adesso, però ha un'animazione fluida che effettivamente è coerente con un HD di oggi. Invece quelle special edition non c'avevano questo problema, tant'è vero che furono così criticate che, se ci fate caso, solo per il personaggio di Guybrush nella seconda remaster, quella di Monkey Island 2, corsero ai ripari, cioè si muove più fluidamente, c'ha molti frame di animazione, è quasi 3D nel movimento, però solo lui, cioè poi gli altri personaggi hanno sempre lo stesso problema, quindi questa cosa a me personalmente dava fastidio, cioè avvertivo troppo che sotto ci fosse ancora il gioco vecchio, che aveva un senso all'epoca. E quindi, cioè, la remaster non riusciva a spiccare il volo perché sì, certo era lodevole il fatto che uno potesse tornare quando voleva alla pixel art originale con la pressione di un tasto eccetera eccetera, però era anche un grosso compromesso questa cosa tecnica, perché poi tu se fai una grafica moderna forse hai bisogno di liberarti della pipeline originale tecnica che scorre sotto, vecchia del 1990, e quindi erano un frutto di un compromesso, ma a parte quello comunque c'era una direzione artistica che effettivamente a meno, ma guardate, sulla direzione artistica devo dire, questa è una questione piuttosto interessante, credo l'avete già toccata, perché io non sono d'accordo, cioè secondo me effettivamente Curse of Monkey Island io l'ho sempre considerato un tradimento, come diceva Simone, di quello che per me erano i Monkey Island, cioè non l'ho mai visti così comici, cioè li ho visti più grotteschi i primi due Monkey Island che comici, mm-hmm. che è una cosa un po' diversa. Vero. Esatto, il secondo è molto più grottesco, proprio nel senso letterale dell'espressione della definizione di grottesco, cioè che ti disturba anche facendoti ridere, però principalmente ti disturba. Invece effettivamente è comicità pura, slapstick, è come se Deo Tenta, io ho sempre detto, è come se Deo Tentacle e Monkey Island avessero fatto un figlio, Curse of Monkey Island. Cioè, interessante. È una cosa un po' strana. Strana, cioè una via di mezzo, però detto questo, io con Curse of Monkey Island ho un problema psicologico, cioè nel senso che avverto questo stacco, però quel gioco a me mi ha fatto così ridere, ragazzi, ma mi ha fatto così ridere che io non riesco a odiare una cosa che mi fa divertire così, cioè nel senso, anche se vedo che effettivamente non è fedele a quello che per me era l'imprinting originale di Monkey Island, cioè Curse of Monkey Island c'ha delle gag che fanno veramente ridere, cioè io raramente ho riso veramente, ci sta tutto il tormentone del pollo diablo, che è una cosa veramente che è azzeccatissimo anche per gli enigmi, ma infatti cioè, veramente, in realtà io non lo odio e penso che tanti non lo odiano, secondo me è forse quelli dopo, sì. Cioè si scende proprio nel baratro a un certo punto, no, cioè nel senso lì comunque Tails l'ho amato molto, ma Tails fa un discorso un po' diverso, perché Tails comincia imitando Curse un po' per arruffianarsi, secondo me, i fan, però poi prende una piega, Tales of Monkey Island, che è molto profonda e originale, secondo me, se uno gli dà una chance fino alla fine, cioè rischia moltissimo verso la fine Tales of Monkey Island, tira fuori delle cose veramente pazzesche nel contesto della saga, proprio come mira a fare il test e vedere se Monkey Island può reggere un po' di dramma addirittura, veramente... Perché, vabbè, io, tu lo sai, Simone, che io sono sempre stato un sostenitore dei poveri Telltale, che sono stati... Sempre, anch'io, sì, spesso molto detestati, ma hanno rischiato molto di più di quello che si dice, che si pensi su alcune cose, e stavano un po' lì per esplodere nella direzione drammatica che di lì a qualche anno avrebbero preso, quindi stavano già facendo un po' di esperimenti, secondo me, in questo senso, cioè non volevano essere all'infinito la succursale della Lucas... E infatti poi di lì a 2-3 anni, vabbè, è storia, tirarono fuori Walking Dead e tutto il resto. No, ma io l'ho difesi pure con Jurassic Park, quindi figurate, non è che... L'ho rigiocato qualche mese fa e c'è ancora delle cose che sono abbastanza incredibili e che nessuno avrei fatto più dopo, ma con David Cage, quindi veramente strana quella Jurassic Park, ma ho visto che l'hai tirato... Comunque, vabbè... Sì. Vabbè, comunque... Domenico, guarda, io l'ultima domanda che ti faccio, così poi dopo la faccio anche agli altri, poi vedi, insomma, tu giustamente devi gestirti anche con il tuo tempo. Secondo te che gioco sarà? E parliamo di gameplay, cioè parliamo di tipologia di gioco. Allora, questo io penso di poter rispondere in maniera abbastanza sicura su questa cosa qui. Lui nel 2020 ha pubblicato uno spin-off gratuito piccolo di Thimbleweed Park che si chiama Dolores, che è dedicato soltanto al personaggio di Dolores, in cui ha sperimentato un'interfaccia diversa che è scomparsa, con un menu contestuale che tira fuori verbi non standard, però, cioè nel senso, tu muovi il puntatore su un hotspot, no? E con la pressione di un tasto, non mi ricordo se era il destro, compare un menu, no? Però il menu non è il classico menu a scomparsa tipo tipo quello radiale di Monkey Island 3, no? In cui c'avevi i verbi fissi, cioè guarda, bocca. Ok, sì, sì, sì. Ma c'hai dei verbi e delle azioni che sono contestualizzate a quell'hotspot. Ok, al tipo di oggetto o di situazione, insomma. Esatto, e voleva, lui ha detto che voleva tantissimo sperimentare con questa cosa, e siccome questa cosa l'ha ritirata fuori David Fox l'anno scorso, quando ancora non poteva ammettere di essere impegnato a lavorare su Monkey Island, però diceva che il futuro per lui delle avventure grafiche poteva passare da questo tipo di sperimentazione con l'interfaccia contestuale, bla bla bla, che avevano sperimentato con Dolores. E abbiamo saputo che David Fox, il grande David Fox, autore di Zack e il capo programmatore di Return to Monkey Island, a questo punto io sarei abbastanza sicuro sul fatto che avrà questo tipo di punta e clicca. Non credo proprio che avrà i verbi sotto, non credo proprio. Quindi per te sarà un'avventura grafica in senso classico, sperimentale. Sì. Non un altro tipo di gioco, non un gioco narrativo alla Telltale. No, perché poi comunque anche di recente è tornato sul fatto a ragionare sull'ideale. Ma questo è interessante, non so. Della cosa. Quindi vuole cercare di fare una cosa un po' diversa, e secondo me andrà in questa direzione. Poi aspettiamo chiaramente nei prossimi mesi più sotto risvolti, sì. Torneremo a parlarne sicuramente, certo. Qualche filmato sicuramente di gameplay cominceremo a vederlo, promozionale, tenteremo di capire se questa cosa è stata disattesa o meno. Non credo però, perché ci teneva molto a questa sperimentazione. Beh, ma ora che l'hai annunciato per il 2022, oramai adesso secondo me inizia la fase promozionale. Cioè, secondo me è chiaro. Sì, guarda, io quello che so, ti dico che mi hanno detto chi segue meglio la Devolver Digital, che è il publisher del gioco, non dimentichiamo, non se lo sta finanziando da solo Ron Gilbert, anche perché c'è da pagare la licenza alla Lucas. So che tiene un evento ogni anno d'estate per presentare la line up di tutti i titoli, quindi immagino che sicuramente quando ci sarà questo evento noi vedremo qualche cosa certo. Di tanto Monkey Island sicuramente, speriamo anche prima, dai comunque l'estate è abbastanza vicina. Domenico. Ok, Domenico, ricordiamoci Didus, lucasdelirium.it, punto di riferimento assoluto, ragazzi. Se volete ulteriori informazioni, andate lì. A parte che c'è una enciclopedia di tutto quello che riguarda il mondo Lucas, quindi veramente un lavoro straordinario che hai fatto negli anni. Te lo dico, insomma, no, non per piaggeria, insomma, proprio perché comunque hai fatto veramente un lavoro con i controgabbasisi, come si dice dalle parti mie, insomma, veramente complimenti. Sono contento e spero sempre che comunque serva. Volevo salutare Umberto, perché tra l'altro nello specifico non avevo ricollegato, io mi ricordo sempre i nomi e gli autori, ma sono un baker del secondo gioco che ha fatto di Cthulhu, e avevo giocato anche il primo, quindi niente, così volevo salutarlo perché non avevo collegato assolutamente il suo nome. Sì, è colpa mia, sempre colpa mia. Comunque va bene, grazie, grazie Domenico, ciao. Grazie della tua partecipazione, ciao. Per noi è stato veramente un piacere. Ciao, alla prossima. Ciao. Allora, ciao. Allora, ragazzi, partendo da Deborah, scusate ragazzi, c'ho veramente un po' stordito stasera. Se tu che tipo di gioco vorresti e che tipo di gioco hai paura che potrebbe essere? Ecco, di queste sono le due domande e poi facciamo pure. Beh, io ovviamente vorrei un gioco, siccome ripeto, per me dovrebbe essere una trilogia, quindi lo vorrei con i verbi sotto e l'inventario sotto. Ah, tu proprio lo richiami proprio la tradizione. Sì, è proprio il classico anni 90, diciamo, perché ripeto, completerebbe la trilogia, ma lo vedo molto molto difficile. Penso più che potrebbe essere come Monkey Island 3, quindi clicchi l'oggetto, magari ti esce fuori gli occhi per osserva, la mano per prendi, eccetera eccetera. Penso sarà più una cosa del genere, spero non ci siano i quick time event, di questo ho paura. Che insomma non stanno simpatici mai a nessuno i quick time. No, perché tanto ormai stanno ovunque e quindi questa cosa un po' mi preoccupa. Perché ma non ce lo vedo Gilbert col quick time event, devo dire la verità. Non si sa mai. No, vabbè, certo, è chiaro, anche perché poi Umberto bisogna anche fare i conti con quello che è il contesto attuale, insomma, no? Quindi tu come ha giustamente detto Domenico, sicuramente lui sperimenterà forme di interfaccia, se sarà un punta e clicca chiaramente, però è chiaro che, cioè, devi comunque sempre contestualizzare con un pubblico che è diverso, che non è poi così avvezzo alle avventure grafiche, insomma, altrimenti diventerebbe proprio una super nicchia. Tu come la vedi? Ecco, e ovviamente che gioco pensi che sarà e che gioco vorresti che non fosse, insomma, questo poi è importante. Io, per mia esperienza personale, avendo provato in prima persona a mettere i nove verbi in un gioco, nel primo, devo dire la verità, li ho trovati un po' ridondanti, quindi in fin dei conti spero vengano abbandonati per un puntatore completamente intelligente, perché rende tutto più scorrevole da un certo punto di vista. Cioè, era bello, è stato bello avere i nove verbi sotto, all'epoca era, anche nei primi giochi Lucas, era anche comunque una novità, qualcosa che ti permetteva di bypassare il parser testuale. Sì, a voglia, fare cose. Esatto. Però ad oggi quella è un'operazione nostalgia, è quello che mi sembra che voglia essere questo Return to Monkey Island, mi sembra tutto fuorché un'operazione nostalgia. Cioè, c'è l'operazione nostalgia per l'annuncio, però il gioco è, sì, certo, è moderno, certo, con una grafica, almeno quello che si vede, cioè proprio quello che si porta ultimamente graficamente parlando. Quindi io mi aspetto che possa essere un puntatore completamente intelligente, ma che comunque sia un'avventura grafica con una sua profondità. Non mi aspetto da Ron Gilbert quelle semplificazioni tipiche delle avventure grafiche moderne, sì. Soprattutto quelle lì non indie, diciamo, no? Quelle lì con produzioni un po' più alte, che vogliono rivolgersi ad un pubblico più ampio, che è molto meno paziente, certo, del pubblico, per tanti motivi che non stiamo a dire. Non penso che cederà su questo, però questa è poi una vediamo. Mia idea. Sì, no, però sono abbastanza d'accordo con questa. Rockinberg però può stupirti, perché comunque ha una mente che lavora un po' out of the box. È un geniaccio, non sai mai quello che ti tira fuori, in effetti. Tra l'altro, invece, tornando al discorso dell'interfaccia a verbi, Deb, poi andiamo anche dagli altri. Tu hai giocato recentemente, ricordiamo che Deb c'ha il suo canale, si chiama Pixel Deb, giustamente. E quindi andate su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella e guardate, fa un sacco di gameplay, parecchi sono. E poi lei è forte, sì, a me l'ha fatta io. Pure quando fa le live, che perde la pazienza e comincia a scapocciare un pochetto. Bellissimo. Però lei ha giocato recentemente la demo di un gioco, Deb, io non ricordo come si chiama, con l'interfaccia classica Lucas, quindi con i verbi sotto, in pixel art, ma con una grafica, ragazzi. Che bello! Veramente bello. Che gioco era? Allora, il nome onestamente non me lo ricordo manco io, perché okay, è abbastanza lungo, però praticamente è uscita adesso la demo e ci sono questi animali antropomorfi, cose che già io adoro, che hanno una caratterizzazione ognuno fantastica, sì, questi fondali bellissimi, e le animazioni, l'introduzione poi quasi cartunesca, esatto, bellissima. No. E rifà tantissimo la Lucas, ma si muore come la Sierra, cosa che invece, esatto, detesto. Sì, esatto, sì. Con tanto di messaggio identico, tra l'altro. Sì. Sì, no, ma poi mi prende l'ansia quando si muore in avventure grafiche, dico no, perché? Perché devi salvare, tu ti scordi di salvare, quello è il problema. No, comunque, no, io sono anzi una persona che salva spesso, okay, okay. Però mi viene comunque l'ansia, perché no, aspetta, non voglio morire, che devo fare? Umberto? Ma dici Backbone per caso? No, uscire, guarda, dalla demo. È uscito dalla demo da poco, questo è veramente Lucas proprio come stile, però sì, c'ha sì, una pixel art meravigliosa, cioè, ma io lo dico io che, sapete, non so uno che impazzisce per la pixel art, ma oltre ad essere bellissima, bellissima grafica, c'ha anche una quantità di animazioni incredibile, cioè veramente è un lavoro che non sembra. Ve lo metto in chat per aspetta caso. Aspetta che controllo, tanto ce l'ho nella lista desideri, così vi dico come si chiama. Ve l'ho linkato per caso, è questo? No, ma questo già lo conosco, però non è questo. Anche se no, perché questo è meraviglioso. Sì, sì, anche questo è bello, sì, anche questo è bello, è vero. Allora, intanto che lo cerchiamo, Walter, invece tu che gioco pensi che sarà e che gioco vorresti che non fosse, insomma? Ecco, guarda, scusami, l'ho trovato. Si chiama Beyond the Edge of Asgard. Infatti c'erano i gufi. Infatti non me lo sarei mai ricordato. No, questo non me lo ricorderei mai proprio. Uscite il nome, dicono in chat. Ecco, te l'ha detto. Ah, ok, ok, detto. Esce a settembre 2022, pare. Ah, beh, quindi ci siamo quasi, insomma, sì. Tra l'altro, se andate comunque sui video di Deb, cercate ovviamente tra una delle ultime live dove c'è scritto demo, proviamo le demo, cose del genere, sicuramente in live, sì, ci sta, è il primo gioco. Ma è Deb con l'H, perché volevo sì. Con l'H, con Deb, l'H, sì. Pixel spazio Deb BH. Tra l'altro ci sei anche tu, insomma, c'è anche il gameplay di Innsmouth, quindi... Eh sì, eh. Okay, mi sono iscritto. Bene. Siamo molto divertiti perché poi la parte finale l'abbiamo fatta in live, è stato divertente. Mi ha fatto bestemmiare, dai, me la guardo. Guarda la parte dei simili ascensori, diciamo, che devi cliccare quello e stare quello, devi cliccare quell'altro e scende quell'altro, è stato un po' complicato. Ha detto, sto stronzo che ha programmato il progresso gioco. No, vabbè. È morto, è fatto. No, ma calcolo, era il primo che avevano fatto, l'ho giocato anni fa, però... per conto mio, perché non avevo ancora il canale, e gli avevo anche scritto a loro in privato facendogli i complimenti, ma avevano risposto, ero tutta contenta, ma avevano risposto. Ma chi, Umberto l'ha risposto? Sì, cioè, Umberto è un pezzo di pane, c'è questa sua... No, è rimasta così contenta. Okay. Comunque, dai Walter, dicevamo. Allora, cosa vorrei che fosse... Cosa vorresti che non fosse, soprattutto? Che non fosse... Guarda, mi accontento che non sia Monkey Island 4. Ok, senso, esatto, che è il peggio proprio, secondo me, sì, il peggio, il peggio della sì, Lucas, sì. Non solo di Ron Gilbert. E invece vorrei che fosse qualcosa che possa accontentare quella parte di me che è rimasta legata ai primi due. So che saranno tanti i compromessi che dovremo accettare, come generazione che viene dai punte e clicca con l'interfaccia a verbi e a inventario. Quelli non lo so, non saranno possibili. Il puntatore intelligente in stile Monkey Island 3 è un compromesso accettabile, anche se lo ritengo comunque un meccanismo che, lo dico provocatoriamente, questo cambio di interfaccia alle volte sembra essere servito a facilitare le nuove generazioni meno avvezze a un certo tipo di pensiero e di gioco a puzzle. Secondo me l'inventario e i verbi aumentavano la complessità degli incroci e delle opzioni che potevi fare, avevi meno suggerimenti, invece questo puntatore che contestualmente è un oggetto già ti indirizza un po' troppo verso la cosa giusta da fare, mi divertiva di meno. Se poi Ron Gilbert tira fuori il coniglio dal cilindro e ci mette qualcosa di nuovo, ma che ammicca a quei meccanismi che dicevamo, meglio ancora. E se no, guarda, mi accontento già dell'umorismo e dell'atmosfera dei primi due, poi quello che sarà sarà. Ti posso dire una cosa su questo fatto. Mentre io programmavo il gioco, no, tu vuoi dare un senso ai verbi, no? Quindi se una cosa c'ha premi, non ci attira, giustamente, però mi sono sempre, mentre lo programmavo, mi domandavo, ma USA? Non lo faccio funzionare? Alla fine l'ho fatto funzionare anche con USA, capito? C'avevo i 9 verbi sotto. Certo. E o fai un gameplay molto, che verte molto sul fatto di utilizzare i verbi, se no, ecco, risulta un po' ridondante, cioè una cosa la fai con USA, una cosa che tiri, però magari fai USA, che fa? Dice, ma... Ok, ma infatti... Cioè, esatto, il principio della semplificazione dell'interfaccia sta proprio su questo, cioè nel senso avere 12 verbi quando in realtà con 4 tu puoi comunque portare avanti il gioco e contestualizzare ovviamente anche a seconda dell'oggetto e del contesto, chiaramente è ovvio che uno snellimento alla fine era quasi un'evoluzione non necessaria, però fisiologica, cioè diciamo che ma questo lo vediamo in generale sul gameplay, più le cose diventano semplici e il rapporto diventa tra te e il gioco e meno c'è interazione, cioè non interazione ma intermediazione tra interfacce e cose del genere, e più il gioco può potenzialmente diventare divertente. Noi ricordiamo che ci sono anche aspetta, finisco così poi ti passo la parola, ci sono delle avventure grafiche a puzzle proprio, dove ci sono degli scenari e tu c'hai, non ci sono neanche comandi, c'è solo un mouse e il click, e tu col mouse e il click devi capire come il personaggio deve arrivare dal punto A al punto B, quindi è tutta una questione di filtraggio tra te, cioè, e il gioco, e quindi è il cervello che devi utilizzare. Non c'è bisogno dell'interfaccia, dei verbi e di queste cose qua. Insomma, poi dipende anche dall'abilità del programmatore, no? Cioè, nel senso, da in che modo riesce ad aiutare il personaggio a divertirsi anche senza avere tutti i verbi. Poi vediamo, insomma. Vai, Walter, scusa. No, volevo solo aggiungere che io amo anche molto quelli che sono quel genere di giochi molto più moderno, che forse potremmo definire dei film interattivi. Quindi ti posso citare i vari Heavy Rain, ti posso citare Detroit, tutto quel filone lì in cui tu di fatto devi solo cliccare. È una via di mezzo tra un laser game e un find the object. Cioè, tu la tua interazione nel gioco è relativa, devi solo meccanicamente fare la cosa giusta al momento giusto, che sai già qual è in linea di massima, no? Che è una semplificazione enorme, che mi diverte se approccio la cosa pensando di stare guardando un film interattivo e non sì, giocando una serie TV anche dopo. Esatto, però se so che sto giocando a qualcosa che per me è molto specifico, l'avventura grafica in cui ci devo mettere bene la testa, possono succedere più cose, poi in realtà il percorso è sempre lineare e non è aperto, devi per forza fare una data cosa per far succedere quella successiva e si sbloccano una dopo l'altra, però sapere che io ci devo mettere dell'ingegno per farlo succedere, devo anche capire, devo entrare anche nelle complessità delle non solo delle meccaniche dell'utilizzo dei verbi o dell'inventario, ma anche l'immaginazione inventiva con quei giochi di parole tipo il Monkey Wrench, no? Che poi in italiano era tradotto in una maniera che era impossibile da rendere, e tu ci mettevi un po' a pensare, ma io perché dovrei utilizzare una scimmia con con un meccanismo? Perché è il parallelo con Monkey Wrench, che come quello che noi chiameremmo la chiave inglese, no? Però sta cosa, vabbè, in italiano si era persa. In italiano fai usa tutto con tutto. E a quel punto idem, l'unico modo. Però io vorrei tornare un po' a quello, ecco. Cioè, diciamo che poi facciamo il raffronto con quelli che sono oramai i giochi narrativi, appunto Telltale, Quantic Dream, no? Quelle cose lì che oramai hanno preso una loro dimensione e non hanno più niente a che fare con l'avventura grafica, se non il fatto di avere poi un'impronta strettamente narrativa. Io sono proprio giochi basati sulla narrazione, e la narrazione a quel punto diventa televisiva / cinematografica. Io vorrei non arrivare lì. Ecco. No, ma io non credo che. No, non credo che. Sì, no. Sì, sicuramente non sarà così. Ron Gilbert non penso se segherebbe le mani. Insomma, sì, però ecco, certo, Monkey Island in quel modo. Anche se la Telltale l'ha fatto Monkey Island in quel modo. Poi. Perché. Vabbè. Anche se era una via di mezzo, perché era ancora sì, era ancora quella la Telltale, faceva un po' avventura grafica, un po' no. Sì, esatto, sì, ok. Beh, era la prima Telltale, se sì, ci pensi, vero. Che sì, poi sì. Subito dopo la stagione della season di Sam & Max, che comunque era sempre derivata. Io però quella serie non sono riuscito a finirla, io devo dire, sono arrivato al terzo episodio e mi sono rotto il cazzo, lo devo dire la verità. È strano, perché io giochi Telltale, anche quelli della prima era, li ho giocati tutti, da Wallace and Gromit, Sam & Max, tutte le stagioni, cioè li ho giocati tutti, quindi per me, però Monkey Island a un certo punto, e tutti mi dicevano vai avanti, perché guarda che dopo quindi ti sei perso quello che ti diceva sì, prima. Sì, no, però lo so poi lo so, perché poi dopo magari sono andato a vedere insomma le storie condensate su YouTube e me lo so comunque visto, però io a un certo punto ci ho provato due o tre volte, la terza ha detto vabbè, non è roba per me. Puccio, invece tu cosa pensi che sarà e cosa vorresti che non fosse? Allora, io concordo con Virus che è abbastanza improbabile che decidano di non usare il sistema con il puntatore, diciamo con la variabile contestuale, okay, che hanno usato nel gioco su Dolores, anche perché io non l'ho giocato Dolores, devo provare. È una roba molto breve e penso che serva esattamente a fare quel tipo sperimentazione, di sperimentazione, cioè a vedere come reagisce l'utente a quella roba lì, anche perché sostanzialmente te lo dice quando lanci il gioco, dice guarda che questo è un pezzo dove abbiamo riciclato gli asset, dove c'è solo questa roba che è nuova, non c'è voice acting, non c'è niente, però tu prova. Vabbè, è gratis, giustamente sì. Devo dire che effettivamente il fatto che ti vada a evidenziare un'azione dominante, ma che poi tu possa scegliere tutte le altre, perlomeno quelle plausibili su un dato oggetto, cliccando con il tasto destro, unisce l'utile al dilettevole, nel senso che ti mantiene la complessità, tra virgolette, dei verbi multipli, però ti rende il gioco più accessibile, una quality of life migliore, perché in effetti tu l'azione primaria ce l'hai subito senza andartela a cercare. Tutto sommato, come via di mezzo, male non mi sembra. Io dubito che possa essere qualcosa di diverso sia come controlli sia come tipo di gioco rispetto all'avventura punta e clicca. Boh, magari ti inserirà qualche passaggio diverso per variare il menu, ma penso che magari più che di 2 minuti di platform semplificato non vedremo. Ah, tu dici addirittura anche gli altri elementi contaminanti. Sì, spero di no, veramente, perché a me le avventure con le contaminazioni mi hanno sempre fatto abbastanza schifo, a meno che ovviamente non sono comunque contestuali. Io parlo, ad esempio, se voi ricordate, oddio, adesso non ricordo quello del... Cioè, tipo che ci mette la battaglia navale. No, sì, no, ma la battaglia navale c'era un'avventura grafica. Che poi c'erano dei pezzi che devi fare in stealth, che, però adesso non mi ricordo come cazzo si chiama. The Longest Journey, non so se ve lo ricordate, il secondo. Sì. Cioè, aveva questi pezzi che erano pseudo action, insomma, che dovevi fare di nascosto, roba del genere, sì, che erano una contaminazione brutta. Dreamfall, sì. Sì, okay. Che poi è un gran bel gioco, in realtà è, sì, però le parti, per fortuna, saltabilissime tutte le parti. Sì, però mi metti una parte e sì, io poi la devo saltare, cioè è pure uno, cioè, capito, è un po' una presa, mi dà fastidio, mi infastidisce. Comunque, rifacendo il giro, implementato male oggettivamente. Sì, lì era abbastanza che... implementato male. Poi, cioè, chiaro che ci può stare, no? Ad esempio, io ho sempre fatto l'esempio di un gioco che per me è stato meraviglioso, con tutti i difetti che c'aveva, e ce n'aveva tantissimi, che era Future Wars. Perché c'era pixel hunting, c'erano un sacco di problemi, che se tu non facevi determinate cose in determinati modi, poi entro un determinato tempo morivi. Insomma, era un gioco che era un po' un casino, però era bellissimo, e poi dopo tu arrivavi alla fine, e la fine, il gioco per risolverlo, era un lungo labirinto dove tu dovevi correre e trovare la giusta direzione entro 2 minuti, perché sennò scoppiava la bomba e finiva tutto. Cioè... no, capito? Anche perché se tu hai programmato non bene un'avventura grafica, inserire un elemento action all'interno di un'avventura grafica non programmata tanto bene, non può essere che programmato peggio. Cioè, questo è un po', capito? E ovviamente chi è avvezzo a giocare avventure grafiche non è avvezzo a magari a giocare parti dove c'è sincronismo, tempismo, cose del genere. Anche questo, insomma. Poi, vabbè, queste sono cose che stanno poi nel gusto personale. Debora, a me se non concesso che Guybrush sia il protagonista, qui stiamo proprio nella pura speculazione, quali sono i personaggi che ti piacerebbe incontrare all'interno di questo gioco e quelli che invece speri di non trovare, perché secondo te sono superflui, oppure sarebbe una rottura delle balle trovarli dentro? Beh, diciamo, il mio personaggio preferito della saga, ossia Largo la Grande, spero che ci sia. Ah, il mascalzone, ti piace il mascalzone? Sì, lo adoro, è il mio cattivo preferito, mi spiace per le Chuck, ma preferisco Largo, e cioè, sono veramente fissata con Largo la Grande, quindi spero tanto che spunterà fuori, anche perché poi non si è capito bene che fine ha fatto, insomma. Brava, infatti. Potrebbe spuntare. Che poi la Grande è la città dove è nato Ron Gilbert, così. Ah sì? Sì. Non lo sapevo. E perché c'è pantaloni verdi? Che c'è l'esclusiva, Pizzi? Poi mica so pantacollante, so pantaloni. Ma questa è un'altra storia, un altro podcast, so altre cose, lascia perdere. E allora non fa domande, scusa. Vai, scusa Deb. Ma spero ci sia anche Stan, perché comunque è un altro personaggio che mi è sempre piaciuto, mi fa troppo ridere. Stan è un must, dai, non può non esserci. Ci dovrà stare, insomma, come spero ci sia anche la signora Voodoo, anche lei ci dovrebbe stare, spero. Non incontrare, non c'è un personaggio, io sempre penso solo ai primi due Monkey Island, ovviamente. Certo. E che proprio non ho sopportato, onestamente no. Non c'è quel personaggio che dico, oddio, questo non lo sopporto. Io ce l'avevo un personaggio che non... Willy, se voi ricordate. No, che... ma povero. No, non sopporta. Wally, il cartografo? Sì, bravo. Ma Wally, povero, Wally, dai, bravo, è Wally. Tanto carino. No, non sopporta. Abbiamo capito che dicevi lui. Wally, che gli freghi la lente a un certo che punto. Che poverino, sì. Mezzo cieco, sì, insomma. Sì, mezzo. Pure l'altro mezzo, però, un pochetto. Pure l'altro mezzo. È pure utile, insomma, il cartografo ci vuole. Sì, sì, però vabbè. Umberto. Guarda, se li ha mangiati tutti Deborah, perché lo fregai tutti. Largo soprattutto vorrei rivederlo. Ah, vi è piaciuto Largo? Pensa però. A me ma anche la sua musica è bellissima. Quello sì, ecco. Quello è vero. E... fa molto Star Wars quella cosa, cioè il cattivo col tema principale, cioè non so se... cioè, tipo quando appariva da Darth Vader, no? Che c'è comunque il proprio il classico, la musica sua. Io adoro il tema di Largo la Grande, quindi quindi è così. E vabbè, Stan, assolutamente mi piacerebbe rivedere il minion di LeChuck, quello scheletro che andava a trovarlo ogni volta nel primo, no? Sì. Mi faceva molto molto ridere. Chi gli dava le brutte notizie un po' con molta paura. Anche quello è Star Wars, ragazzi. Cioè, anche lì è Darth Vader che arriva il tizio e dice: Lord, scusi, ma questo hai smesso di deludermi. Vabbè, comunque c'è proprio queste molto molto autocitazionismo, insomma, lì all'interno dello stesso mondo. Poi, ragazzi, la testa a bussola, ah, grande. No, ma anche testa del navigatore. Quello che ti serviva per orientarti quando entravi nel vulcano lì a Monkey Island. Mi dai la collana? No. Per favore, no, per favore, no, e dai, no, e dai, sì, no. Bellissimo, cioè. Enigma bellissimo, cioè, devi insistere. Sì, tra l'altro era una delle parti grottesche del gioco, perché era ben scarnificato. Sì, era inquietantino un po', sì. Con gli occhi mangiati alle larve, là, che questa faccia terribile. Sì. È veramente, in effetti, cioè, poi ragione, vedi Didus, cioè non è che era comico, era grottesco. E beh, c'era anche il tizio, quello là con i fratelli Fettuccini, insomma, queste cose. Fettuccini Brass. I fratelli Fettuccini, e poi il tizio col tatuaggio che parlava, insomma, che sembra io. Mituk. Vai, Francesco, tu invece quali sono i personaggi che vorresti vedere, quelli che proprio davano un po' fastidio? Ti dico uno che forse si sta dimenticando: i pirati di bassa morale. Sì. Voglio vedere a che punto stanno con quel circo che volevano creare, assolutamente. Poi pure io non c'è nessuno che non voglio creare. Anche giustamente, tutti voi l'avete evitato, ma a me Murray fa schiattare in tutte le sue rappresentazioni, è la cosa migliore di tutti gli altri Monkey Island che si vogliono riconoscere o meno, però ahimè poi voi esistono, però Murray ma fa sempre un rice, cioè, c'è niente da fare, però c'è nel trailer, spero che non rimanga solo nel trailer, diciamo. Vabbè, non ce l'avrebbero messo, nel senso, comunque è un richiamo particolare, proprio che, come diceva pure Domenico prima, cioè nel senso, alla fine ti sto facendo vedere che te ce l'ho messo, quindi non me lo vedi a rompi i coglioni, insomma, perché può anche essere una provocazione, anche una provocazione, sì, è sicuramente una paraculata, questo non lo metto in discussione, però è veramente un personaggio amato, quindi sai, giocartelo e poi non mettercelo può essere sempre un po', capito, è una sfida tutto sommato, però è un personaggio amato. Walter. Vabbè, in assoluto, vedi come sto gesticolando, si vede alla radio come gesticolo, No, non si vede, però si sente. Chi può essere in assoluto quello che voglio rivedere? Ovviamente Stan in una nuova mirabolante carriera professionale, adatta ai tempi, magari vende smartphone, non lo so, però insomma ce lo vogliamo rivedere. E un altro che non avete citato, perché poi per rivederlo servirebbe anche il giusto espediente narrativo, però secondo me un piccolo personaggio ma tanto grande nella lore di Monkey Island, è Rapscallion. Che fai, non ce lo rimetti? Herman Tutrus, insomma, sono quei personaggi che in realtà sono stati talmente simpatici che insomma in un modo o nell'altro li fai tornare anche per citazionismo. Beh, sì. Non ce n'è nessuno che insomma non voglio proprio rivedere, però uno per provocazione. Elaine. Non lo vorresti vedere? No, voglio una nuova vita per Guybrush. Vabbè, ma lui è innamorato di lei. Pure lei è innamorata di lui, dai. Magari a furia di essere trattato male, magari, che ne so. Vabbè, ma lui è anche scemo, però, scusami, che colpa di lei. Sì, questo è vero, però per quello ho detto per provocazione. Tra l'altro anche gli indigeni di Monkey Island, insomma, quelli con le teste a maschera là, i cannibali insomma, erano bellissimi. Sì, tanto penso che l'arcipelago verrà ribattuto tutto, quindi magari tutti questi personaggi in un modo o nell'altro li possiamo rivedere, ovviamente. Beh, sì, se c'è un multiverso non muore nessuno. Ci sono i cannibali nel terzo? Non me lo ricordo. Terzo. Sì, sul vulcano. Ah, sì, che c'è il tofu. Sì, il tofu. E Umberto, manchi te? No, Puccio. Ma... No, scusa Umberto. Sì, volevo di Puccio, ma ho detto Umberto. Io vado al contrario di Walter. Io spero di rivedere lei. Perché sei un romantico maledetto. No, ma perché essendo io profondamente cretino, l'idea che esista una donna capace, oltre mia moglie, di amare un perfetto imbecille come Guybrush, è sempre stato valsa per il cuore. Cioè, insomma, guardato quello che devi subire mia moglie avendo me come marito. Anche in questi giorni che non è in casa e fuori per lavoro, è una roba che insomma, merita il giusto rispetto. Ma poi in realtà spero anch'io tantissimo di rivedere Stan, no? Perché personalmente credo sia il comic relief migliore all'interno di una serie che già fa ridere di suo. Spero di non rivedere le ciancole. Spero che ci sia un altro antagonista. Tu dici. No, ma sono legati. Guybrush e LeChuck sono troppo legati a doppio filo. L'uno senza l'altro. Tecnicamente dovrebbero essere fratelli. Teoricamente. Beh, sì, peraltro. Tra l'altro. Spero che ci sia. Relativamente a Stan, nella serie Telltale, quando lui fa l'avvocato di Guybrush, che c'ha quella camicia. Non so se che. Bellissimo. Che c'è una camicia alla giacca. Che tra l'altro, se sei astigmatico, vomiti mentre guardi lo schermo. Perché praticamente lui si muove, però la texture rimane sempre la stessa. Praticamente è come se fosse. Vabbè, sempre in tutti i Monkey Island è così. Sì, però lì. Un marchio di fabbrica. Sì, però lì è più evidente. Non te lo aspetti, diciamo. Perché cioè, 3D intanto l'hanno fatto apposta. Capito? Quindi è proprio fastidioso, cioè nel senso è una cosa. Sì, quello è come quando nella TV anni 80-90 vedevi la cravatta del presentatore che assumeva l'immagine di sfondo invece che il suo corpo. Esatto, bravo. Ma secondo me quelli più pericoli anche. Secondo me quello è il richiamo, richiamo è quello. Si caccamano più pericoli. Gira la palla. Va bene, dai ragazzi, Deb, vuoi fare una considerazione finale? C'è qualcosa che ti viene in mente da dire riguardo a questa cosa? E oltre poi, magari poi dopo facciamo un giro sulla prossima avventura che vogliamo giocare, però questo non c'entra niente, vai. Ma guarda, io spero che sia l'occasione per far conoscere questa saga a chi ancora non l'ha giocata. Quindi sia alle nuove generazioni, ma anche a persone che comunque magari non saranno tante, perché obiettivamente, come dicevate anche voi prima, alla fine un po' tutti, Monkey Island, ciao mio cugino, ci abbiamo giocato, cioè queste cose ci sono state, però magari qualcuno che se l'è perso lo possa recuperare e quindi apprezzare sia i primi che questo che uscirà. E sperare, insomma, comunque che sia nell'insieme un bel gioco, va bene anche se è moderno, fa niente. L'importante è che sia un bel gioco, che ci divertiamo e che esca veramente nel 2022. Che altro che sa. No, vabbè, quello è abbastanza sicuro, se no non annunciavano comunque così smaccatamente. Non t'hanno detto il mese, no, però. Sì, secondo me verso fine anno. Se il fatto che loro l'abbiano annunciato, secondo me vuol dire che stanno oramai un pezzo avanti. Annunciato in quel modo lì, secondo me stanno già un pezzo avanti. Umberto, tu che dici? Credo anch'io. Io l'unica considerazione che faccio è spero di divertirmi. Sì, esatto. Cioè, nel senso, questa è la cosa più che voglio aggiungere anche. Cioè, nel senso, senza sovrastrutture, senza aspettative, senza niente, mettiti lì, accendi e te lo vedi e ti fa quelle risate. Non mi aspetto neanche di riuscire a ripercepire l'atmosfera di una volta, perché non è cambiato Monkey Island, sono cambiato io nel frattempo, no? Nel senso, sono passati talmente tanti anni, no? Che quello che io avevo 11 anni, appunto. Però è così, la cosa divertente, la cosa piacevole sarebbe, ecco, divertirsi è una cosa che tu dici, vabbè, anche che sei un gioco scazzone, cioè una roba, però che comunque alla fine tu ti sei divertito e hai ritrovato lo spirito, diciamo, di Guybrush Threepwood in quel gioco lì. Ecco, questo mi basterebbe, anche se poi il gioco magari non fosse così clamoroso, però insomma, divertirsi sarebbe già abbastanza. Però insomma sì, convengo insomma anche con Deborah il fatto che comunque che funga magari anche da testa di ponte per arrivare comunque a generazioni che magari comunque non hanno visto, anche perché quando uscirà nel clamore comunque secondo me riuscirà insomma anche a trasbordare oltre al solito pubblico dei videogiocatori, secondo me, cioè questa è una possibilità che c'è, insomma io me lo auguro per il gioco, pure per Ron Gilbert, che tutto sommato se lo merita. E Francesco? Che c'è da dire? Anche io volevo concludere su questo, anche perché prima ti sei dimenticato di me quando hai detto cosa ti aspetti, come ti aspetti sto gioco, cosa vuoi, cosa non vuoi, ma amen, ti perdono per questo. Ma sono sì, ma lo sai che io c'ho... Sì, stasera sto a pezzi, cioè proprio, non lo so come ho fatto a fare sta diretta, devo dire la verità. Sto tranquillo, anche per me. Anch'io non sto qui, cioè io potete immaginare, non sono assolutamente un purista, ma neanche vuol dire che se me lo fanno in pixel art con i re dicono che schifo, non voglio, no io, quello che mi presenti ci gioco, ovviamente voglio che sia qualcosa di in qualche modo innovativo, che non sia solo un'operazione nostalgia, diciamo, ve l'ho detto, io non sono purista, quindi non necessariamente voglio i derby, io voglio il parser però. No, non voglio il parse, però ma aspetto anche che a un certo punto ci metta il parse, ma aspetto anche che a un certo punto ci metta anche i quick time event per percularli, esatto, però. Esatto, quindi cioè, il quick c'è time event che se lo fai giusto è sbagliato, una cosa del genere, insomma. Sì, infatti visto che il fatto che c'è Ron Gilbert, visto che comunque era molto geloso, cioè tutte queste precondizioni, lo faccio solo se si allina nei pianeti eccetera eccetera, il fatto che ci sia lui vuol dire che è davvero lui convinto a farlo, quindi sì. O fare una cosa tipo anche tipo perché Matrix 4, anche perché non gliel'aveva mai chiesto nessuno, era lui che stava fissato a farlo, quindi, o fare una cosa tipo Matrix 4 e detto me lo volete far fare, eccovi. Così non mi chiedete più di fare altri Matrix. Esatto. Ecco, esatto. Esatto. O fa una cosa del genere, oppure. No, beh, per me. Non lo so. Io gli lascio davvero un foglio bianco. Fa quello che vuoi. Carta bianca. Sì, sì. Perculaci, deludici, sorprendici. Mamma me ne fotte. Un tuo lavoro, me lo godo, mi piacerà anch'io, di base spero che sia divertente alla fine, che non sia completamente tempo perso, perché pure se ne esce una merda, alla fine è un tempo guadagnato, ho detto che okay, ho fatto qualcosa che alla fine non mi piace, se si è giocata, oramai Ron Gilbert si è fatta vecchia, amen, se è giocata l'ultima cartuccia, muori, ciccia vellecchia, sì, ma poi ho giocato a Monkey Island 4, posso giocare pure a questo, insomma. Sì. L'unica cosa che volevo dire, vabbè, quasi a chiusura mia, diciamo che con questa puntata si chiude un cerchio mio personale, non ho avuto occasione di dirlo quando c'era prima Diduz Domenico, perché io praticamente dalle avventure Lucas ho scoperto quasi 20 anni fa il sito di Diduz, e da lì poi mi arrivò la notifica, mi ricordo maggio 2013 è uscito un nuovo podcast Calavera Caffè, e da lì poi mi ritrovo qua praticamente. Guarda, colgo l'occasione per dire che comunque su Runtime Radio alle 10 tutte le mattine stiamo passando proprio le primissime puntate di Calavera Caffè. Però alle 10 di solito lavoro, quindi. No, lo so, però vabbè, io me le sto riascoltando e devo dire la verità, un po' mi imbarazza, cioè nel senso quel Calavera Caffè con quella mia conduzione di veramente tantissimi anni fa, però devo dire che non... Vabbè, ci sta. Mi fa piacere, Cristiano l'altro giorno comunque mi ha chiamato e anche nel messaggio che lui mi ha mandato per il 50° compleanno, comunque il fatto che Calavera non ci sarebbe stato se non ci fossi stato io comunque ad aiutarli, questo mi fa piacere, perché è stato un bel lavoro quello di Calavera. Sono contento che loro continuino per la loro strada, e anche quello che era in preaccordo da tempo, cioè nel senso, noi comunque sapevamo che avremmo separato le nostre strade, però Calavera Cafè è stata una bellissima avventura, abbiamo fatto delle puntate straordinarie, ci siamo veramente divertiti, anche ho avuto poi l'opportunità anche di conoscere Diduz, insomma è stato un bel cammino, insomma, e devo dire che mi fa piacere che ci sia poi questa cosa. Tra l'altro, tu, come dici, hai appena detto, sai, Calavera è stato il primo podcast che hai ascoltato, e dopo siamo diventati amici, quindi è tutto bellissimo, tutto un incrocio fantastico, bello, queste cose un po' gay a quest'ora. E chi ci sta? Walter e Puccio. Non mi ricordo più la niente, domanda. Tu vai con la tua considerazione finale su questa cosa, così cosa ti dice il tuo cuoricino di dire? Allora, che Ron Gilbert ha avuto 30 anni, non 3, per condensare tutto quello che vuole, carta bianca, fai quello che vuoi, esatto. Ma fallo come l'avresti fatto con la testa, non con le tecniche che avresti usato 30 anni fa, e sicuramente sarà un gran successo. Sì, io sono abbastanza d'accordo anch'io, anche perché secondo me lui ce l'ha la testa per fare quello che vuole fare, insomma, ci ha avuto il tempo. E perché non è che si è inflazionato, non è uno di quelli anzi. Un videogioco all'anno. Cioè, quindi non è Tim Schafer, per capirsi, insomma. Prego, Puccio, prego. Si è dormito, Puccio. Ancora. Non ci sei. Sì, magari. Mi piacerebbe. Purtroppo penso che la strada per andare a dormire sia ancora lunga. Ripeto, io sono ancora molto molto molto speranzoso. Sono più che altro in questo momento in questa fase di curiosità avanzata che mi sta spingendo a leggere qualsiasi notizia, qualsiasi tweet. Tipo c'è qualcuno che... Allora, disclaimer, nessun bambino è stato maltrattato durante questa live, questo è importante. No, io purtroppo in questi giorni sono un ragazzo padre. Esatto, il ragazzo padre. Mio figlio, giustamente, tra l'altro... Pare che abbia apprezzato molto la musica di Monkey Island. Ah, gli è piaciuto, meno male, sono contento. Infatti è finito il tappeto musicale, forse se lo rimetti si appiede. Sì, si riaddorme. Vabbè. Ok, dai, comunque, allora, prima di sentire un attimo che cosa giocate e che cosa giocherete nella prossima settimana, giusto così per sapere, una cosa curiosa, giustamente c'era anche un'altra persona che voleva esprimere la sua opinione su questa questione di Monkey Island, e non possiamo non fargliela esprimere, perché chiaramente è stato anche lui una parte importante dei podcast videoludici di Italian Podcast Network, allora era Runtime Radio, oggi. E quindi ci ascoltiamo un attimo il parere di Marco Gualdi. Buonasera, ci tenevo tanto a dare anche il mio contributo su questo ritorno di Monkey Island, che è veramente aspettato da decenni, possiamo dirlo, perché insomma sono tutti quanti contenti, vedo che c'è tanta gente esaltata, in effetti è un grande ritorno, tanto hype per questa nuova, vecchia IP riproposta di nuovo, una nuova lettura, una nuova avventura. Ci tenevo tanto a dire anche la mia su questa pietra miliare del mondo videoludico, e dire che a me francamente di Monkey Island non mi ha fregato un cazzo. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. E vabbè, d'altronde Marco Gualdi non poteva essere. Aspettavo... Non ci si poteva aspettare niente di diverso, anche perché più lui allungava il brodo più lo sapevi dove andava a finire. Va bene, Deborah, che giocherai la prossima cosa che giocherai, o cosa stai... Ah, tu poi tra l'altro mi sa che stai portando un bellissimo nuovo gioco sul tuo canale, che... A Memoir Blu, esatto, degli Annapurna, il nuovo gioco che è uscito a fine marzo, che quasi non sbagliano un colpo, devo dire, quasi non sbagliano un colpo come publisher, devo dire, molto basati sulla narrazione in generale come tipo di giochi, però sono quasi tutti belli, devo dire, complimenti. E questo come lo stai trovando? Sì, anche questo è molto narrativo, insomma, tu vivi i traumi che ha vissuto questa ragazza protagonista nella sua infanzia, e quindi piano piano praticamente lei è circondata dalle acque e va sempre più in profondità, quindi vai sempre più nella profondità del suo inconscio, nel dolore che ha ancora tutt'oggi, insomma, di quello che ha provato con il rapporto con la madre, i problemi che ci sono stati. Quindi sembra molto carino, onestamente, molto profondo in tutti i sensi. Nel senso che va a fondo, dici. Hai ragione. E Umberto? Io sono in burnout da videogiochi, quindi credo che non sia un momento di pausa in questo momento. Sì, giustamente, è iniziato lo sviluppo, giusto? Sì, sì, del terzo capitolo, cioè, quindi sei immerso completamente in questa ennesima nuova avventura che ovviamente estenderà ancora di più, poi, perché ogni capitolo c'è anche una progressione tecnica. Certo, vediamo. Ho già fatto vedere qualcosa a Simone. Top secret. Io muoio nella mia tomba in silenzio. Comunque, volevo dire tra l'altro che Umberto, oltre a sviluppatore, giocatore e via dicendo, c'ha pure il suo sia canale YouTube, i Beceri Videoludici, che il suo canale Twitch. C'è ancora Twitch, sì? Sì. Ah, ok. Dove fa live, insomma, lui poi è molto tecnico sulle questioni legate al retro gaming, insomma, quindi è veramente interessante. Se siete super appassionati del genere, lui è proprio il, forse, secondo me sta diventando un iper specializzato, proprio forse uno di quelli che diventerà un punto di riferimento anche da questo punto di vista, anche perché grosse discussioni pure con Carlo Sant'Agostino. E attenzione ragazzi, è successa una cosa che non è mai successa nella vita, che Carlo Sant'Agostino, agonizzando, sboccando sangue, ha detto che ha sbagliato. Incredibile ragazzi, ma è successo anche questo, giusto? No, mi sono perso sta scena, è stata una roba tipo Fonzi che ha fatto. No, aspetta, esiste, è stata registrata, scolpita. No, sta nelle chat di Ludico Forum. Cioè, ma prima sono stati fiumi di insulti fra di loro, che giustamente insulti, vabbè, non è che, cioè, fiumi di discussioni fra di loro, perché Carlo, lo sapete, non vuole avere ragione, più ragione degli altri, no? Quindi poi a un certo punto si è reso conto che forse però non so se ha detto proprio esattamente che ha sbagliato, no Umberto, ricordamelo tu. No, in realtà ha detto che ha sbagliato. Vabbè, ma io, incredibile ragazzi, io non è che io sto sicuro, io se non sono sicuro di quello che dico sto zitto, cioè quando parlo so di che cosa sto parlando. Ma è quell'aneddoto di tipo di febbraio, che subito dopo è scoppiata una guerra. Esatto, una cosa del genere, esatto, sì quello, sì. ok. Va bene, e invece tu Francesco, che c'hai qualcosa sotto mano? Non posso dirlo perché non è Runtime by Night. No, ma che c'entra? Io sto parlando dei videogiochi. E tu mi dici hai qualcosa sotto mano? Ah, ok. No, in realtà non sto giocando a niente. Avevo cominciato, come si chiama, Shadowrun Hong Kong, che è l'ultimo Shadowrun che mi manca. L'avevo iniziato un paio di volte, ma poi non ho avuto più modo di giocarci. Però se proprio riprenderò a giocare, è quello che me lo porto finito. Vabbè, Walter? Walter, diciamo, guarda, che io sono quello che, insomma, dedica molto meno, poco tempo, e sicuramente il vero prossimo gioco sarà questo. Però se riesco, perché un po' che me lo ripropongo, vorrei rifarmi una run di Cyberpunk, perché pare che con le ultime patch il gioco sia cambiato da così a così, quindi la curiosità di farne un pezzo per provarlo, ecco, questo sì. Ok, Puccio te lo conferma. Perché Puccio, sai... Ah, è vero che c'ho pure quello, ci avrò giocato tre ore. Beh, vedi. Ci ho giocato al tuo, ci ho giocato più io al tuo, secondo me. Secondo me sì. E Puccio invece, così chiudiamo... Io sto finendo Elden Ring, sono proprio alle battute finali. Ma basta con questi giochi di violenza, perché... di gente che uccide gente, su, basta. Giochi di menare. E poi ogni tanto intervallo con Tunic, che ho aspettato per tanto tempo, finalmente uscito, hanno il Game Pass. E... cioè, un'esperienza piacevole, un gioco molto creativo, è fatto molto bene. In realtà penso che, cioè, mi sta dando più soddisfazioni lui che Elden Ring, ma Elden Ring ormai sono entrato nel tunnel, quindi... Bene. Ok, va bene. E invece io in questo momento purtroppo ho 50.000 cose da montare. Tra l'altro ufficialmente chiuso il montaggio del famoso documentario di Avezzano, che dovesse a febbraio. Quindi insomma, sì, tra l'altro mi sono arrivate le tracce audio questa sera, quindi insomma entro questa notte sarà completamente tutto finito. perché adesso mi metterò a lavorare, e quindi insomma a breve penso probabilmente tra sabato e domenica uscirà questo benedetto documentario, una cosa veramente anche carina, insomma devo dire è venuto fuori un lavoro dei quali siamo, dei quali siamo molto soddisfatti. Però videoludicamente parlando, ragazzi, io aspetto in maniera spasmodica quel gioco narrativo alla Telltale ambientato nell'universo di Star Trek, che voi sapete insomma è una delle mie malattie, insomma, mi porto da quando ero bambino. Tant'è che quando ero bambino, anzi, non ho neanche più. Ma lo aspetti, ma non, ma esiste? Cioè, sì, sì, sì, esiste, esiste, sì. Adesso non mi ricordo come, no, si, come si intitola, devo dire la verità, ma cioè, è molto bello. Tra l'altro, stanno facendo uscire anche vari pezzi di gameplay. È una cosa che mi interessa tanto. E vabbè, detto questo, io direi che a questo punto facciamo una cosa così, così liberiamo anche Deb, che probabilmente ci avrà pure sonno, oppure magari vuole giocare a qualcosa. Non so quello che fa. No, no, tranquillo, tranquillo. Allora facciamo così, io... ragazzi, ho sbagliato, non dovevo fare questo, però si era capito insomma che ho sbagliato, no? Quindi ce ne andiamo così, con un po' di pianoforte che ci accompagna verso l'uscita. Io ringrazio veramente per questa puntata, che era una puntata emozionale, totalmente speculativa. Abbiamo fatto dei ragionamenti, ma abbiamo anche dato nella prima parte, anche grazie a Domenico Diduz di Lucas Delirium, anche delle informazioni magari più specifiche riguardo a quello che ovviamente sarà questo gioco, le informazioni che avevamo a disposizione. Sappiamo che sarà localizzato in italiano, non sappiamo la sorte del doppiaggio, perché non sono informazioni che non possiamo avere fino a che ovviamente non saranno rilasciate da vari embarghi. Però insomma il gioco c'è, sta per arrivare, manca poco, e sono veramente contento di averne parlato con voi, perché meritava, insomma non potevamo non farlo. Quindi io ringrazio e saluto chiaramente Deborah di Pixel Deb. Grazie mille a voi veramente di avermi invitata, grazie. Tanto te ricapita, non ti preoccupare, che noi sai che quando vuoi. Noi ci insinuiamo come e poi dopo dietro tutti i collaboratori di Runtime, no scherzo dai, però è vero, succede ogni tanto. Grazie a Umberto. Grazie a voi ragazzi e buona serata. Buonanotte. E grazie ovviamente a Francesco Lobby Frontali di Muro. Grazie a voi, sempre meglio collaboratori di Runtime che collaboratori di Giustizia. Esatto, mamma mia che frase forte e rebellion che hai detto. Partito totalmente a caso. Sì, sì, ma infatti ha fatto bene. Salutiamo anche Walter Sbano. Ricordiamo Walter Sbano, OGM tutti i lunedì sera alle 21 e le orazioni della sera il martedì, mercoledì e giovedì alle ore 20 su Runtime Radio. Ragazzi, grazie a tutti. Alla prossima, magari nel profondo dei Caraibi, nell'isola di Scum. Bene, proprio nell'isola di Scum. Sì, perché il tributo all'editor. Ok, ah giusto. E vabbè, ma lo sapete che sono arrivato io. E salutiamo anche Puccio, anche detto Carmine Console. Buonanotte a tutti, ragazzi. Bene, bene, bene. E ragazzi, questo è Runtime, www.runtimeradio.it. Ricordate, se avete l'opportunità, andate sul sito, cliccate sul pulsante anch'io, fate delle donazioni a questo che è un progetto che è in continua espansione. E tra l'altro stiamo preparando anche ulteriori programmi, ulteriori live per quella che sarà la prossima stagione, quindi continueremo a diventare sempre più radio. Quindi ragazzi, questo insomma merita un po' di supporto da parte vostra, fino a che non arriva la SIA e ci ingabbia tutti quanti. Quindi detto questo, io vi ringrazio per la vostra partecipazione e buonanotte a tutti.